sebuah hoja naya bimerera bano mogora hua egalgalo no no harara era ni harto ala farema fare fare ma fare fare ma fare fare ma fare fare ma fare fare fare ma fare fare ma fare fare ma fare fare ma fare fare ma fare fare fare ma fare fare ma fare fare ma.